Mix 24 di Giovanni Minoli. Il nemico dunque non è soltanto quello fuori da noi, quello lontano. Il nemico si nasconde anche nel cuore delle città europee. Occorre dunque un progetto di sicurezza senza quartiere, ma anche un progetto culturale, sociale e politico. Il disgusto per ciò che è avvenuto deve portarci ad avere una strategia lucida e razionale che affronti e distrugga l'estremismo islamico e la sua folle scia di morti. Sappiamo che serviranno mesi e forse anni. Sappiamo che li sconfiggeremo, ma sappiamo che avremo bisogno di tutto il nostro coraggio, di tutta la nostra intelligenza, di tutta la nostra energia. Chi oggi promette soluzioni miracolistiche non si rende conto di quanto sarà lunga questa storia, di quanto sarà difficile questa storia. Non è dunque il tempo degli sciacalli, ma non è neanche il tempo delle colombe. Bene, dunque, al di là delle parole del Presidente del Consiglio, il problema è certamente il problema dell'intelligence e dei suoi buchi. Noi abbiamo con noi uno dei maggiori esperti di intelligence nel mondo, il professor Nicolò Pollari, ex capo del SISMI. Buongiorno. Ecco, buongiorno. Com'è possibile che a due giorni dall'arresto di Salah si verifichi un'attentata di questa portata? Ma guardi, al di là della drammaticità dei fatti e se vuole al di là delle dimensioni che sono veramente quelle che sono sotto i nostri occhi, lei è davvero sorpreso che vi sia stato un attentato? No, io non sono sorpreso. Io non credo più tanto, appunto. Ecco, ma i terroristi hanno usato però esplosivo ad alto potenziale, avevano armi automatiche, bombe, Kalashnikov e cinture esplosivi. Sono entrati con questo arsenale. Quando è che scatta il terrorismo, l'allarme terrorismo? Mai? Mi sembra che sia ora che l'Europa si renda conto che il terrorismo vive per noi. Questa è la cronaca di una morte annunciata, ce l'avevano detto in tutti i modi, avevano indicato anche le città. Mi pare che tra le notizie stampa che trapelino in questi giorni vi siano addirittura delle indicazioni più specifiche, ma diciamo che al di là di queste indicazioni da tempo, diciamo così, il programma operativo dell'ISIS andava in questa direzione, e quindi era prevedibile che ci fosse, come prevedibile che ce ne saranno altri. Se lei percorre i siti di queste ore eccetera, vedrà delle cose che io non dico, perché non è giusto creare allarmismo sulle cose, su ciò che non si è controllato e non è verificabile, ma non c'è nulla che mi sorprenda. Ecco, però vuol dire che non la sorprende, ma la sorprenderà il fatto che questo significa che l'attività informativa, cioè l'attività di intelligence, è praticamente nulla sostanzialmente. Dunque, guardi, innanzitutto quando parliamo di queste cose noi dobbiamo parlare di attività di sicurezza, della quale fa parte anche l'intelligence. Diciamo che sì, il dispositivo di sicurezza è un pochino più complesso e certo, Investe tutta una serie di prospettive e di responsabilità. Diciamo che e qui è come la sindrome della malattia, sa? Si pensa sempre che tocchi a qualcun altro e qualcuno spera alla fine in cuor suo e in silenzio, pur rendendosi conto della situazione, che non tocchi a lui. Io penso che sia ora di fare qualche cosa di concreto. Lei dice qualcosa di concreto, cosa pensa? Guardi, bisogna usare nei confronti di una minaccia le contromisure più adeguate. Le contromisure più adeguate sono quelle proprie e constano di qualità dell'intervento stabilita nelle sedi proprie e degli uomini giusti e capaci ad occuparsi di ciò. Ecco, ma cerchiamo di essere concreti, professor Pollari. Questi attacchi avvenuti a 48 ore dalla cattura di Salah sono una risposta all'arresto del terrorista? Ma guardi, io le darò una risposta particolata. Penso di no, in parte penso che ci sia una connessione. Non penso affatto che siano direttamente collegati alla cattura del terrorismo. penso che la cattura del terrorismo abbia forse fatto anticipare un po' qualche tempo per la preoccupazione che qualche cosa potesse venire fuori. Quindi è stato un errore far trapelare la notizia della cattura. Guardi, se è stato fatto deliberatamente, specialmente con le indicazioni che emergono da molti organi stampa e sono state propalate con grande enfasi, che lui volesse collaborare, certamente è stato un errore molto grave. E quindi le autorità belghe avevano in mano un super testimone che avrebbe potuto evitare la strage. Guardi, sì. Io non so se lui sia un super testimone, lui è sicuramente un personaggio molto significativo. Penso che i suoi contegni a Parigi non siano esattamente compatibili con la filosofia e il modo di agire dell'ISIS. Però, infatti lui non ha voluto morire. Appunto, però ho il sospetto che l'arresto di Abdeslam Salah e specialmente la possibilità teorica che questa vicenda in qualche modo potesse determinare in Belgio, a Bruxelles, dove loro sono più forti, dove la situazione le permetteva, una qualche variabile rispetto alle loro progettualità, abbia anticipato l'iniziativa. Ecco, lei professor Pollari, lei ha detto appunto il Belgio, lo sappiamo tutti, è un luogo nel quale sono più forti, ma se sono così forti vuol dire che non ci sono fonti capaci di segnalare la presenza di queste persone, cioè non abbiamo fonti? Guardi, sono talmente chiuse, talmente protetti? Non è che non abbiamo fonti, è sempre un problema di qualità dell'attività preventiva e dell'attività informativa. In Belgio, il Belgio come paese in sé ha sempre avuto un rapporto molto particolare con questo tipo di fenomeno. Loro, sono cose che mi sono state anche dette nel tempo, hanno sempre pensato e sperato che di essere solo un paese di transito. In realtà poi invece non è vero, sono diventate un paese incubatore. Ma non solo sono diventato un paese incubatore, oltretutto quel contesto, proprio il Belgio, è una realtà molto peculiare anche rispetto all'Europa. Vi sono troppi governi, troppe municipalità, troppi distretti di polizia. Come interscambiano le informazioni? L'intelligence si muove in questo quadro. Lei pensi alle divisioni politiche e linguistiche, fiamminghi e valloni sono due mondi completamente separati. Vi sono sei governi. E federale, poi fiammingo, comunità francese, comunità tedesca, vallone, regione della capitale. E questa situazione si riflette anche a livello municipale. Solo a Bruxelles vi sono 19 distretti, ciascuno con un suo sindaco, sei autorità di polizia. Quindi di fronte a una strategia globale come quella dell'ISIS, la possibilità di rispondere è praticamente zero. Guardi, in quel contesto il primo problema è che le anime del Belgio parlano fra di loro poco e malvolentieri, questo mi sembra. In più si aggiunge la qualità dell'azione preventiva, dell'azione di sicurezza e di intelligence che effettivamente qualche senta, parlano poco professor Polle, parlano poco e malvolentieri fra loro, ma parlano pochissimo e molto malvolentieri, l'abbiamo visto su Salah, tra Francia e Belgio, quindi altro che coordinamento europeo invocato da tutti. Tutti ne parlano, ma non ci sono neanche i presupposti minimi. La realtà della collaborazione intelligence nel mondo è quella che tradizionalmente i servizi intelligence sono direttamente serventi l'interesse del loro paese e i paesi sono molto gelosi di questa prerogativa. E quindi diciamo che non c'è scambio, cioè in realtà lo scambio non c'è perché non hanno niente da scambiarsi. No, lo scambio ci sarebbe. Potrebbe essere, però bisogna valutare una certa posizione. Perché un servizio, una struttura intelligence può essere appetibile rispetto a un'altra? Perché magari è trainante. In questo caso la struttura intelligence offre una sua utilità, un suo vantaggio e gli altri, la considerano, gli vanno dietro e c'è un'azione, un interscambio, un'osmosi, un'azione di ritorno. Diversamente, se la struttura intelligence è, diciamo così, suddita o addirittura conflittuale o addirittura ci si sospetta reciprocamente, non si ha fiducia. Vabbè, quindi di fatto questo, nessuno si fida di nessuno, per dire parole semplici, mi pare di capire. Ma guardi, quindi la guerra attraverso un'intelligence condivisa mi sembra ancora molto lontana, malgrado gli attentati e malgrado i morti. La guerra attraverso l'intelligence condivisa è vicina ed è lontana. E nel tempo abbiamo avuto degli esempi di cooperazione importante. Naturalmente la cooperazione importante avviene su basi concrete, non avviene su basi. E adesso è più vicina o più lontana? Adesso... Ma guardi, noi quando si parla di intelligence bisogna parlare di intelligence reale e di intelligence virtuale, no? Io mi auguro che ci avviciniamo così, che ci si occupi del problema, per andare verso un'intelligence reale, cioè fatta di riscontri sul campo, di informazioni reali vere con le persone giuste. Ecco, parliamo di noi, siamo alla vigilia di cambi di direzione dei servizi. Appunto, dovremmo andare in questa direzione. Dovremmo andare in questa direzione, a cominciare naturalmente dalla individuazione delle persone. Delle persone più giuste, più adeguate, più proprie per svolgere questo tipo. È un investimento. Lei ha qualche indicazione da dare? L'indicazione da dare è solo indicazione di serietà. Io penso che la serietà io non la devo insegnare a nessuno. Sia una cosa che sta nel patrimonio di chiunque. Il generale Mori dice che prassi e norme hanno trasformato i servizi in carrozzoni burocratiche con scarse valenze operative. Ecco, è un'analisi un po' dura. Guardi, sa, il generale Mori tutto sommato è stato così incisivo per esprimere, secondo me, un concetto di questo tipo. Per determinarsi efficacemente perché esista una prospettiva concreta ed utile, occorre conoscere davvero e occorre agire di conseguenza. Insomma, dobbiamo avere le informazioni. Mettiamoci in condizione di conoscere. Ecco, la Libia è il nostro fronte caldo, il più caldo. La nuova legge consente adesso al Premier di usare direttamente i corpi speciali. È una scelta positiva? Ma guardi, come lei sa, la Libia è il paese, è una delle realtà più incerte, ingovernabili, senza regole, senza equilibri e priva di riferimenti che c'è oggi al mondo. E questo, a mio sommesso avviso, ma non solo a mio sommesso avviso, perché mi sembra a causa di quello che abbiamo combinato qualche anno fa. Ecco, ma questa legge che consente al Premier di usare direttamente i corpi speciali è uno strumento utile? Guardi, io sono convinto che nella vita tutto sia utile, tutto sia meno utile. Diciamo così, l'uso dei corpi speciali, mi permetta di esprimere così il mio pensiero in modo proprio. Io credo che quando si parli di intervento militare sul terreno in Libia, si parli di una prospettiva che condurrà nelle attuali condizioni ad un disastro. Sì. Ad un disastro. Posso usare un'espressione colorita che spesso usavamo nelle caserme? Ecco. Si entra porco e si esce salsiccia. Accidenti. Ecco, in Libia occorre innanzitutto trovare. Di evitare di entrare porci e uscire salsiccia. Cercare di evitare. Va bene. Ecco. Grazie professor Pollari. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS, entrare porco e uscire salsiccia. Mario, mi sembra che sia più chiaro di così. Mi sembra professor Pollari, un programma condivisibile, insomma, nel senso che bisogna fare le cose per bene. Questa difficoltà assoluta di avere rapporti fra i servizi mi sembra che sia il cuore del problema. È, no? Centrale, si è visto a Bruxelles. In fondo, che dici, no? Petrangelo? Infatti, il deficit è politico. Sì. Se non c'è sovranità politica, non se ne esce da questa storia. Mm. Sono oltre 35 anni che le potenze occidentali si appoggiano a quelle arabe del Golfo, quelle che utilizzano, finanziano e armano il fanatismo terrorista. E se non si capisce questo, non si può andare avanti. Non c'è la soluzione. Bene, noi abbiamo un altro problema caldo che ci riguarda, che riguarda l'Italia, e il rapporto fra me e Vivendi, Telecom, Mediat, insomma, sentiamo quello che ha detto Berlusconi a proposito del rapporto fra Mediaset e Vivendi. Do you feel like a Vivendi si prepara a rimescolare le carte delle televisioni e delle telecomunicazioni italiane. Vivendi diventerà azionista di Telecom Italia e quindi ne condizionerà in futuro i suoi destini. Ad oggi non c'è nessun rapporto fra Vivendi e Mediaset. Sì, potremmo essere anche complementari. Massimo Mucchetti, senatore del Partito Democratico. Buongiorno, presidente della Commissione Industria. Ecco, senatore, l'amministratore delegato di Telecom, Marco Patuano, ha lasciato l'incarico. Gli azionisti francesi di Vivendi hanno dettato e vinto con la loro linea. Sembra che tutto sia accaduto senza che il governo sia intervenuto, abbia mosso un dito. Lei ci crede? Ma io ci credo, nel senso che Vivendi ha tutto il potere e la responsabilità di nominare l'amministratore delegato che crede. Le responsabilità del governo sono altre. Ma lei crede che ci sia un accordo da qualche parte fra Bolloré e Renzi sul futuro di Telecom? No? Ma vorrei capire su che cosa si articola, io me lo augurerei se ci fosse, ma dovrebbe essere un accordo per cui Telecom fa gli investimenti che non ha mai fatto finora. E non li ha fatti semplicemente perché non aveva i soldi per farli. Oggi Telecom ha meno soldi di ieri, ha 7 miliardi di margine operativo lordo e 27 di debito. Il suo debito è debito spazzatura, junk bond. E quindi Telecom, che è una società quotata, il suo destino deve essere deciso dal mercato, insomma il governo non potrà fare niente. Ma il governo può fare dell'altro, nel senso in parte l'ha fatto, ha messo degli incentivi per cablare l'Italia nelle zone cosiddette a fallimento di mercato, cioè quelle dove la gente non userebbe spontaneamente questa nuova tecnologia, ma la vera partita si gioca sulle aree che sono la maggioranza, dove non è possibile dare sussidi pubblici. Lei propone di costruire una NewCo con Telecom, Enel e Metroweb, cioè una società come? Ma certamente non una società a controllo statale, perché Telecom avrebbe, specialmente nella fase iniziale, una parte importante. Ed essendo privata, è privata. Poi potrebbe essere una società tranquillamente quotata in borsa, e quindi a maggior ragione ci sarebbe una presenza del mercato. Il contributo di Enel e di Metroid andrebbe valorizzato per la sua effettiva entità, sarebbe importante. Non ci sarebbe niente di male se una parte del capitale di questa società fosse pubblico, ma sostanzialmente sarebbe una società ad azionariato privato. Senta, la Francia ha conquistato la moda, la grande distribuzione, la finanza con la BNL, adesso controlla le telecomunicazioni, aziende che in fondo potevano essere acquistate anche dagli italiani e invece sono diventate francesi. Sono più bravi di noi o lei pensa che ci sia qualcos'altro? Ma io penso che l'Italia sia uno strano paese, ha citato la BNL poteva andare a Unipol nel 2005 e molti di quelli che oggi si lamentano del fatto che i francesi dilagano, allora sulla base di argomentazioni che i tribunali si sono incaricati poi di dimostrare false, ma quell'operazione venne fermata dalla politica e consegnando BNL ai francesi. E quindi, magari poco male, no? Però, e quindi non sono più bravi o no? Queste cose, sono più bravi o no? Ma certamente i francesi mai avrebbero fatto con delle società francesi quello che noi abbiamo fatto, torno a dire, con la BNL prima o con altre società poi. Telecom compresa. Ma anche certamente provassimo noi andare a prendere Orange facendo una scalata, ma quando però il sottoscritto, scusate l'autocitazione, portò pressoché per intero il Senato a chiedere la riduzione della soglia dell'OPA obbligatoria dal 30 al 15%, allora c'era Telefonica in ballo, per evitare che il passaggio di proprietà avvenisse, fra l'altro tagliando fuori i soci di minoranza, il governo Letta allora e il neosegretario del PD allora Renzi fecero orecchie da mercante. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, l'SMS, chiedo scusa per la mia voce ma sono veramente molto raffreddato. Al centro della situazione dunque c'è la possibilità, una qualche possibilità, di un rapporto tra Telecom e Media. Sentiamo appunto, come dicevo prima, cosa ha detto Berlusconi a proposito. Per quanto riguarda il gruppo Vivendi, è molto interessato all'Italia. Io sono amico del signor Bollore da diversi anni e manifesta un interesse su alcune cose che noi facciamo in Italia, non assolutamente Mediaset, ma per esempio sulla nostra capacità di fare prodotti per la televisione, prodotti per tutte le televisioni, format televisivi, programmi televisivi, e per quella attività di fornitura al pubblico di un portafoglio di film molto vasto e anche di altri spettacoli. Vivendi lo fa già in Francia, ha una visione per il futuro europea e quindi è possibile che si trovino delle possibilità appunto di collaborazione. Ecco, Daniele Doglio, professore di economia dei media all'Università di Bologna. Professor Doglio, abbiamo sentito Berlusconi, buongiorno, ha parlato, manifestato un interesse seppur limitato ma insomma molto chiaro di un accordo, forme di accordo con Bolloré. Questo significa in ogni caso il mondo delle TLC da una parte, delle televisioni è in grande movimento. Ecco, Bolloré e Berlusconi che in qualche modo stanno per far nascere il polo italo-francese anti-Netflix, si può leggere un po' in questo modo? Ma insomma, si può leggere in molti modi, non è tutto chiarissimo, diciamo la verità. Allo stato non ancora. Quest'ultima dichiarazione di Berlusconi sembra anche in qualche modo tirare un po' il freno. Soprattutto circoscrivere. Ci ritroviamo in una situazione come la cessione del Milan ai cinesi, no? Che va avanti da un anno e via dicendo. Non c'è dubbio che Berlusconi ha dei problemi, non possiamo entrarci dentro, no. Mediaset non è più la gallina delle uova d'oro di prima, Mediaset Premium non funziona. Quindi ci può essere un interesse vero. Ma anche di Vivendi. Anche di Vivendi, però io quello che vedo per certo è che fino ad in questo momento Vivendi è l'azionista di riferimento di Telecom Italia, sì, la vera grande partita sembra quella lì, quel 24,9% ai limiti d'Europa, che potrebbe diventare una partita nelle mani di un finanziere scaltro, abile e veloce come Bolloré, per diventare un'aggregazione, per far partire un'aggregazione nelle TLC del Sud Europa. Naturalmente, però questo è un altro discorso. Quindi diciamo, io quello che vedo adesso è questo, intorno si parla molto di questo interesse per il gruppo Mediaset e nelle sue varie attivazioni, certamente questo potrebbe servire a Vivendi per aprire una finestra in Spagna, se però non è così circoscritto come sembra fare Berlusconi, Però potrebbe essere a concentrarsi sui contenuti, che è il mestiere che sembra voler fare Vivendi e in particolare Bolloré. Negli ultimi 10 anni non possiamo dimenticare che Vivendi ha ceduto tutte le partecipazioni strategiche nelle telecomunicazioni facendo un sacco di soldi che ha sistematicamente reinvestito nei contenuti, quindi è pieno di soldi, può farlo. Ecco, i due modelli di business, professor Doglio, i due modelli di business, quello di Netflix e quello di Bolloré, sono molto diversi tra loro, in cosa soprattutto? Ma fondamentalmente sono diversi perché Netflix è diciamo il portatore della bandiera delle cosiddette OTT, cioè degli over the top, degli operatori internet che lavorano senza rete, e qui c'è un altro punto di difficoltà a capire, perché se Bolloré ha le reti e vuole lavorare sulle reti, beh, questo non c'entra niente con come lavora Netflix, ma come lavora Hulu. No, ma infatti è una scelta alternativa, è un altro modello. L'alternativa di Netflix, che ne ha fatto diciamo la ragione del suo successo al mondo, la crescita straordinaria di questi ultimi 2 anni, è il fatto di fare un'offerta low cost, a basso costo, 8, 9, 10 dollari, di non dover investire nelle grandi reti e di sviluppare tutto nella sui contenuti, di produrre non solo, attenzione, produzione di contenuti originali, grande offerta di contenuti non originali, ma soprattutto quella che si chiama software analytics, cioè software di gestione degli utenti, della domanda, un marketing diverso, un marketing più strategico, molto approfondito, che è quello che le televisioni tradizionali, anche quelle a pagamento, non riescono a fare. Quindi la vera differenza è qui, nelle dimensioni economiche dell'investimento iniziale, che se togli le reti sono relativamente e nel modeste, modello di marketing professore, sul contenuto e sul modello di marketing, ecco. Dunque entrambe però hanno necessità soprattutto di produrre, al di là del fatto che Netflix le produca facendo un marketing più mirato, gli altri forse meno, però sempre di produrre sempre più serie televisive che alla fine sono il vero cuore del futuro, è così? Di nuovo, qui ci sono dei cicli, c'è stato un momento in cui sembrava che il cuore dell'offerta televisiva fosse lo sport, adesso lo sport è sceso un po' di importanza perché costa troppo, sono tornati di moda i film e soprattutto le serie TV. Le serie televisive, assolutamente ha ragione. E quindi... Però su questo punto io mi permetterei di fare di nuovo un riferimento alla dichiarazione di Berlusconi. Sì. Beh, non è che si possa dire con certezza che Mediaset in questo è un grande alleato, certo, perché non è che sembra capace di produrre titoli al di fuori del mercato mediterraneo, diciamo, mercato di consumo italiano e spagnolo, è tutto uno scambio tra quelle due parti lì. Il pacchetto dei titoli di film hollywoodiani che comporterebbe in un'eventuale operazione di convergenza, vabbè, in questo momento ce li ha lei, ma sono disponibili sono sul mercato diritti, dei diritti, sono dopo diritti, domani potrebbero certo essere gli altri. Senta, essere proprietari quindi di diritti worldwide, cioè di diritti che valgono in tutto il mondo, su tutte le piattaforme, diventa essenziale per poter competere. In questo momento è di nuovo quello che gli americani chiamano content is king, il contenuto è il re di tutta la situazione. Di tutta la situazione. Però la vera chiave è la capacità di gestire le finestre di utilizzo, sì, perché sì, ormai le naturale finestre di utilizzo, cioè il fatto di usare lo stesso titolo su più canali, su più mercati, su più operatori di gestione del rapporto con gli utenti, è diventata un'arte a sé stante, anche perché anche, con tempi di pochi mesi. Anche perché c'è una grandissima offerta di tecnologie, cioè di modalità di uso dei prodotti, e la produzione certo non è al livello di coprire continuamente queste non 24 ore. Appunto. Ecco, in un quadro come questo, la Rai Servizio Pubblico compete perché ha la sua cineteca, punto. Ma diciamo che il problema della Rai è quello di cui altre volte che abbiamo parlato, certo, è sempre più evidente. Dovrebbe decidere cosa vuol fare la grande, dovrebbe certo decidere cosa vuol dire essere un servizio pubblico oggi, dovrebbe ridefinire e ridurre il suo perimetro di azione. Dopodiché non è solo la cineteca, perché comunque no, per molto tempo ci sarà ancora un mercato in cui la televisione tradizionale competerà. Però io credo che il problema della RAI e di tutti i servizi pubblici oggi è di andare verso un'aggregazione europea dei servizi pubblici, certo, che è l'unica in grado di giocare una partita globale con le internet companies americane e con questi nuovi operatori che comunque rappresentano la sfida vera dei prossimi 10 anni. Diciamo. Insomma, un bel puzzle, Mario, quello tra Vivendi, sì, Berlusconi e Telecom. Diciamo. No, è molto affascinante. Io, tra l'altro, penso che sia giusto fare le aggregazioni, ed è giusto anche fare la convergenza tra l'operatore di TLC. È necessario. Ma per necessario, forza, lì va il mercato. Però volevo, e mi pare anche che sia il tentativo, anche questo secondo me interessante dal punto di vista culturale, di creare un polo europeo, sì, sì, competitivo. Però volevo sapere la tua opinione la su questo, se anche tu condividi. Qui c'è la costruzione, il tentativo di costruire intorno a un'idea che è stata sempre l'idea francese dell'exception culturelle, sì, cioè dell'Europa come diversa dal mondo anglosassone e quindi come capacità di raccontare il mondo, le storie in un modo diverso. Questo è il tentativo che potrebbe stare dietro a questa operazione. Tra l'altro sarebbe positivo anche per la creatività italiana. Non questo, ma la creatività italiana, europea in tutti i sensi, e in questo senso i servizi pubblici o fanno anche loro una loro aggregazione o sono destinati a scomparire. Sì, anche questo mi pare abbastanza evidente. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, sms, pubblicità. Mix 24. Stay out super late tonight, picking apples, making pies. Put a little something in our lemonade and take it with us. Put life away in a fake empire. Beh, Pietrangelo oggi? Perché questa canzone? Perché è impossibile capire tutto in una sola volta. Tra la folla c'è sempre qualcuno che si porta degli uccellini sulle spalle, altri che vanno a cogliere mele per preparare le torte, in punta di piedi ci si muove per le strade, e se la primavera tarda e se c'è ancora traccia di gelate per i trattori, qualcuno ci danza sopra. Ha chiamato Don Chisciotte, ha chiesto questa chicca oggi da dedicare alla signora Rosselli con un messaggio: il cielo si affaccia in me. Un po' d'aria per l'anima, Mario. Tu stai seguendo gli aggiornamenti, sì, ci riporti, sì, sulla terra? Purtroppo sì, tra l'altro una notizia ancora da confermare, ci sono delle verifiche in corso, però anche questa infausta potrebbe essere, cioè ci potrebbe essere una vittima italiana tra i morti degli attentati ieri a Bruxelles. La Farnesina sta aspettando conferme che poi girerà in media, ovviamente. Vediamo nelle prossime ore. Vabbè, vediamo, seguiamo se si saprà qualcosa. Intanto, sì, la tua bolla? È sempre sulla contemporaneità e ci interessa moltissimo ed è in qualche maniera legata agli eventi di Bruxelles. Un po' di musica. Beh, devo dire che la scelta di Gloria oggi... Gloria si è occupata della mia playlist, solitamente io lo faccio in prima persona perché sono molto geloso di questo più di qualsiasi altra cosa, però oggi Gloria è stata brava guerrera. Chi sono? Sono i T-Rex, Tame My Tiger, che sarebbe Doma la mia tigre. Sentiamo ancora un po'. E la tigre è Trump, che però non riescono a domare. Il fantomatico piano dell'establishment repubblicano per fermarlo, finora insomma non ha avuto grandi esiti. Ha vinto largo in Arizona, lo stato che distribuiva più delegati, consolida la sua leadership. Cruz ha vinto nello Utah, ma insomma il dato politico è che Trump si sta consolidando. Lo stesso accade in campo democratico con Hillary Clinton, che ha vinto anch'essa in Arizona, anche se Sanders poi ha messo a segno due colpi. Resta il fatto che insomma chi guida la corsa, Trump, ha veramente un inaspettato seguito, inaspettato soprattutto per l'establishment dei media in realtà. Certo. E in fondo, se uno guarda bene la campagna elettorale, Sanders è un populista de sinistra, verrebbe da dire qua in Italia, e la Clinton però accarezza anch'essa in fondo il malcontento dell'elettorato. La cosa interessante è che si cominciano a proiettare gli scenari veri, cioè che cosa succede, si chiedono tutti, se Trump prende la nomination e poi corre per la Casa Bianca e poi vince. È probabile, già ne avevamo accennato ieri dopo l'intervista al Washington Post, che si accentui la politica isolazionista, o neo-isolazionista, meglio dire, che è una corrente continua della politica americana nei prossimi anni. Questo significa che noi dovremmo aumentare gli investimenti della difesa, ed ecco perché c'è il link con questa cosa. Certo. Quanto costa la struttura della NATO, perché questo era stamattina. Questo sarebbe quello che Trump vorrebbe tagliare. Esatto, gli Stati Uniti concorrono per il 22%. Diciamo che stiamo parlando solo delle strutture di comando, cioè di gestione della cosa. 1.8 miliardi di euro il comando, 222 milioni tutto il settore civile, 690 milioni la struttura di mantenimento territoriale. Senti, quindi 2 miliardi. Sono 2 miliardi così, e tutto questo senza partire. Bravo. Cioè senza accendere senza motori. Far salpare le navi, accendere i motori dei carri, far decollare gli aerei, muovere le truppe. La verità è che la guerra brucia denaro. Tanto. Salamino. Retro marcia su Roma. Giovanni, ci fosse un re oggi, non troverebbe nessuno che salendo al Quirinale potesse dirgli: maestà, vi porto l'Italia del predellino. Non si trova, non Silvio Berlusconi, che pur padrone del predellino, si è dichiarato antifascista. E neppure Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, che fin troppo chiara è stata. Mai stata fascista, così sotto lo sguardo benevolo di Lucy, ovvero sia Lucia Annunziata, badessa suprema di Rai 3, Giorgia ha dovuto proclamare l'excusatio non petita, la cui accusatio è finita e impagliata nell'anagrafe. Cioè, sono nata nel 1977 e non sono mai stata fascista. Insomma, potrebbe essere in un certo senso una svolta veltroniana questa qui, questa di Giorgia Meloni. Come Walter Veltroni, infatti, che a suo tempo disse mai stato comunista, la volitiva leader della destra archivia il neofascismo e così pure il Novecento. Insomma, debalconizza una destra abbondantemente balcanizzata. Oh, cosa dice? Quando passo per Piazza Venezia, più che al Duce, penso agli automobilisti che impazziscono appena piovono due gocce d'acqua sui San Pietrini. Francesco Storace, orripilato da siffatta retromarcia su Roma, si domanda: oibò, e dall'altare della patria che ne facciamo? Lo liberiamo lo spazio per un bel parcheggio? Fischia il sasso! Hai notato, Giovanni, ci sono i sardi tamburini e i siculi picciotti, come quelli che ti fanno compagnia. Insomma, debalconizzare i balcanizzati della destra. Quando la Meloni ha annunciato la decisione di candidarsi, aveva scelto d'avere sullo sfondo il Pantheon. Lì avevano convocato le telecamere, i giornalisti, i notisti, affinché proprio il proclama avesse alle spalle le colonne. C'era però il sole a fare controluce e le telecamere hanno dovuto inquadrare i tavolini del bar, non dunque le possenti vestigia. E dunque, cosa dire, povera destra, non sa più il sole che sorgi. Sole che sorgi, libero e giocondo, sul colle nostro i tuoi cavalli. Giovanni, la playlist di Pietrangelo. Pietrangelo è formidabile, unica. Speriamo non ci sia la Digos in ascolto. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, l'SMS pubblicità. Mix 24. Per la prima volta dopo 20 anni si sblocca la vicenda Bagnoli, uno dei posti più belli del mondo. Ho sfidato Enzo De Luca, gli ho detto: se non sei un personaggetto ora la risolvi sta cosa. Noi abbiamo bisogno di risposte, abbiamo bisogno semplicemente che Bagnoli riparta. Da sindaco la prima cosa che faccio, chiamo e dico: quando riuniamo la cabina di regia su Bagnoli, alla quale vengo anch'io? Così Bagnoli nelle promesse del premier Renzi e sempre Bagnoli nei programmi dei candidati a sindaco di Napoli. Bagnoli è l'impianto siderurgico dell'Italsider. Un orgoglio italiano degli anni 60, 2 milioni di metri quadrati, 6.000 operai, 820.000 tonnellate di produzione di acciaio e ghisa. Poi, dal novembre dell'81, una catena di disastri. La chiusura, la vendita, l'avvio delle privatizzazioni, l'inquinamento ambientale. Nel 2014 un altro insuccesso, il fallimento di Bagnoli Futura e la fine della trasformazione urbana, della bonifica, della riconversione. Bagnoli, il cuore e l'acciaio. Tra errori e speranze, l'odissea di una baia incantevole, di un impianto siderurgico, di politiche sbagliate e di un futuro diverso che forse è vicino. Qui a Mix 24, il giallo della storia dopo il giornale radio. Mario, sì. Ancora una bolla? Sì, una bolla, solo che c'è una cosa che ha detto Stucchi, che noi abbiamo avuto qua in trasmissione qualche giorno fa, il presidente del COPASIR, adesso, che è abbastanza interessante. Lui dice che testuale, c'è una nota del direttore del DIS, l'ambasciatore Giampiero Massolo, che è persona capace tra l'altro, che mette in evidenza che mette in evidenza alcune problematiche, fa un'analisi sulla possibilità, non la certezza, però sulla possibilità che ci siano cellule terroristiche strutturate anche nel nostro paese. C'è una preoccupazione reale e si lavora per inertizzare queste cellule. E quindi sta mettendole veramente in guardia. Sta mettendo in guardia. Detta così è più di una, diciamo, eventualità, cioè ci sono dei documenti ufficiali su questo. Questo è uno, secondo me, è un filone molto interessante da seguire per noi, ovviamente. Soprattutto, come dire, fa notare l'importanza del rapporto vero col territorio. Beh, gli italiani su questo sono sempre stati molto bravi, anche in tempi difficili come questo, dove il servizio è un po' meno efficace. Rapida per chiudere? Sì, efficacissima, con una voce soave. I would like to leave this city, this old town. Questa è Aurora, Half the World Away, è meravigliosa, per dire che luccica anche il lusso. Ci sono i dati di Hermès, è molto interessante guardarli, è un bilancio ricchissimo, ricavi più 18%, quota 484 miliardi, profitto netto 973 milioni, cresce l'Asia più 5%, ma il vero boom è del Giappone, più 18%, grazie ai cinesi aumentati del 200%, che vanno a fare shopping dalla Cina al Giappone. Costa meno in Giappone. Sì, e il futuro è sempre là, caro Giovanni, come vedi. Pacifico. Noi intanto con il professor Roberto Bernabei, come ogni giorno, commentiamo le più importanti notizie di medicina apparse sulle riviste top del mondo. Medicina, le frontiere della ricerca. New England Journal of Medicine, febbraio 2016. L'incidenza di demenza negli ultimi 30 anni. Abbiamo detto ormai un mucchio di volte che stiamo invecchiando, che la popolazione ha un'aspettativa di vita tale che chi nasce oggi probabilmente arriva ai 100 anni in largo numero. E chi è che oggi ci sta sentendo alla radio ha la tranquilla possibilità di sfondare i 90. E allora la preoccupazione è di come arrivarci a questi 90 o eventualmente a questi 100, soprattutto, quella è la mia esperienza di tutti i giorni, dal punto di vista cognitivo. Ci staremo con la testa o non ci staremo? E allora questo studio è andato a vedere cosa è successo rispetto alla demenza in tre periodi, 1980-1990, 1990-2000, 2000-2010. E il rischio dell'incidenza di demenza è diminuito rispettivamente del 22, del 38 e del 44% nei tre periodi. Quindi questo vuol dire che l'incidenza di demenza diminuisce. Questo va di pari passo, dicono gli autori, con la riduzione della patologia coronarica. Anche l'infarto è diminuito, anche la cardiopatia ischemica è diminuita, per cui potrebbe essere che ci sono fattori predisponenti simili nelle due patologie. Come sapete, oggi nella demenza, soprattutto nella malattia di Alzheimer, quella non sicuramente vascolare, quella primitiva, diciamo, noi sappiamo poco perché è capitata questa demenza. Ma questi dati ci dicono due cose. Probabilmente ci sono delle genesi vascolari in ogni caso. D'altra parte c'è una diminuzione dell'incidenza di demenza, per cui ho un'anticchia di speranza a fare questi 90 lucidi di testa c'è maggiormente, anche perché ad oggi non ci sono farmaci, quindi rischieremmo, se no, di arrivare tutti novantenni, ma una gran parte con la capoccia da un'altra parte. Speriamo di no. Gloria Guerrera, per chiudere, che cosa ci propone? Oggi un fado napoletano per chi si è arreso, è forte del distacco, vuole solo arrivare alla fine. Misia, indifferentemente. Fammi quello che vuoi, indifferentemente, tanto saccia che so. per te non so più niente, e dames tu valena, non aspettavi mana, che indifferentemente si tu mi accira in un tarica niente.